Per completare il teletrasporto dovete calcolare l'energia usando la formula. Energia è uguale a massa per velocità della luce al quadrato. Se la massa è 100 kg e la velocità della luce è 3 per 10 alla ottava metri al secondo, quanta energia vi serve?